Diretta del sabato sera. In studio c'è Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale e i DJ del ristorante Convento. Buon ascolto. Buon ascolto, buon ascolto. Speriamo assolutamente che lo sia. Benvenuti. Come lo sia? Buonasera a tutti. No, benvenuti. Speriamo che lo sia un buon ascolto. Ma certo, noi sì, ce la mettiamo tutta, ma non è detto che poi riusciamo a entrare, a far breccia nei cuori dei nostri ascoltatori. Ma con calma, pazienza. Con calma, pazienza. Sempre comunque che è la chiave del successo. Allora, benvenuti, buonasera. Questi sono i microfoni di Ristoradio Convento. Siamo in diretta. Le voci che sentite sono in diretta, quelle di Master Nick qui con il mio fido scudiero ormai. Sì, senza armatura, Alex Angioletti. Sì, senza armatura, sì. Però un po' crociato. Un po' crociato, in effetti sì, però sai che mi ho beccato un altro in giro per il locale che ha una croce come la mia. Sì, ha una croce piuttosto vistosa che lo fa un po'. Ognuno ha le sue croci. Esatto, da portare. L'importante è che riusciamo a portarle sempre con orgoglio e con onore. Se vi state chiedendo perché siamo qui, la risposta è perché non l'abbiamo capito ancora. No, a parte quello, perché lo facciamo sempre. Ah, perché okay, vabbè, ormai abbiamo, ogni sabato, ogni volta che c'è una serata live, noi ci intrufoliamo in radio. Buttiamo in radio, sentite come sempre, se ascoltate la nostra programmazione, le interviste dei nostri ospiti, e noi ci prendiamo questo angolino, questa sorta di antipasto aperitivo della serata. E come sempre, io non so l'argomento della serata. Ma nemmeno io lo so, non lo costruiamo, lo costruiamo come diceva il grande Claudio Strada facendo. Ah, vabbè, cosa troveremo? Cosa troveremo? L'importante. Ma secondo me sono le migliori avventure quelle lì, senza tanto programmi. Anche perché la radio si basa anche un po' su questo, insomma, non tanta improvvisazione, però anche empatia, quello l'argomento che ti viene. L'argomento del giorno! Ma l'argomento del giorno, quello lo lasciamo ai professionisti. Noi davvero? Non siamo professionisti, noi ci divertiamo e quindi parliamo un po' di quel nulla per lei. Non dico quello che ci capita, però insomma, senza troppa scaletta, senza troppa preparazione prima. Va bene. Quello che diciamo è un po' però, il fil rouge, oltre a parlare c'è anche la musica, no? Facciamo sentire tanta buona musica, quello sì, come mi piace sempre dire, la musica del divertimento, quella è la chiave della nostra playlist, visto che siamo insomma il Convento Music dire, and Dance. Vorresti dire che San Pietro era un DJ? Perché la c'è in forma il nostro Angioletti. Dicevo, l'unico fil rouge delle nostre discussioni, dei nostri argomenti, sono un po' le notizie della settimana, un po' i fatti più importanti, un po' riassunti, un po' meno. La settimana è il biscotto. Quello di cui si è parlato tanto di questa settimana, quindi vedremo che argomenti ci verranno in mente. Il biscottino. Dici. A Palermo. Che il canzone biscottino. È quella? Quello è un tormentone. Ah, è un tormentone. Sì. Magari parliamo di tormentoni. Ce n'è uno in mente che poi vorrei sottoporre alla tua attenzione. Oddio, metto le cuffie. Poi le mettiamo e ne parliamo in modo anche approfondito. Okay. A proposito di buona musica, l'hai detto, ne ascoltiamo tanta buona, speriamo tanta bella sicuramente. Direi che secondo me siamo partiti bene stasera, hai sentito la playlist? Sì, c'è una playlist, come dire, di come chiamiamo noi, il bicchierino di musica che ci ha tenuto molto a compagnia. E ho fatto bere anche a te. Tanto, i pezzi del momento, assolutamente, e questo secondo me è il brano in classifica al momento, il più forte che si possa trovare nelle classifiche nazionali ed internazionali. Lei ha una voce che oserei definire calamita. Davvero attrattiva. Sì, t'affascina. Non è bella, perché non è una voce bella, però è una voce che veramente sai che hai fatto un complimento di merda, poverina? No, non è una bella voce. Che cos'è? Non è una bellissima. Che sei la tua vicina di casa quando si arrabbia? È una bella voce per antonomasia. Ah, ok. Cioè, non è quella che puoi definire una quella bella voce. X-Factor, esatto, brava. Okay. Ma, però è molto brava, cattura, è una voce veramente che ti rimani lì incollato. Rimani incollato ad ascoltarla. Andiamo a ascoltare. Ormai sì, speriamo di avervi messo un po' di curiosità, e l'abbiamo detto, il brano del momento, lei o loro, sono Tones and I, e andiamo ad ascoltarci Dance Monkey. Questa è Ristoradio Convento. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Just one more time. Dai, Dance Monkey, il pezzo del momento. Posso imitarla? Poi prova, prova. Ci sei. Vedi che, però, vedi che però, come ti dicevo, non è una bella voce. Cioè, quella che puoi definire una voce, come dire, intonata o perfettamente intonata. È cattura. È lei. Bravo. Hai detto la cosa giusta, è unica. È un po' Ferreri, no, scherzo. È vero, qualcosina c'è, è vero. Però è unica e riconoscibilissima. Aspetta un attimo. Che è quello che caratterizza per i cantanti oggi. Giuseppe Ferreri alla cassa 2, Giuseppe Ferreri alla cassa 2. Ritorna giusto, sempre giusto, al suo perché, perché durante un tour. Beh, pensa che per un po' ha rischiato anche di tornare indietro perché non vendeva e poi grazie a Baby K è tornata alla ribalta. E non solo, perché dopo ci sono stati i Takagi, insomma. Sì, sì, beh, però il primo ritorno grande, in grande stile è stato con Baby K. Avevano fatto una parodia su in televisione che quando c'era stato appunto un calo si erano chiamati Baby K e la Giuseppe Ferreri a dire: ragazzi, dobbiamo fare alzare qui il cachet perché abbiamo delle spese che insomma da sostenere sono altine. Però in quel periodo appunto in cui non vedeva più così tanto bene c'era nell'aria questo ritorno alla vita di prima, quindi faceva la cassiera, la commessa, la cassiera in un supermercato. La notizia del giorno. La notizia del giorno. Lo diciamo prima, che noi siamo anche molto attaccati, non dico all'attualità ma quanto alle date, a quello che succede durante la settimana. E direi che oggi è una data molto importante. Sì. Non vogliamo fermarci sull'aspetto l'antiabusivismo politico. Nel senso non vogliamo fermarci sull'aspetto politico perché non sono argomenti che ci piacciono. Però non vogliamo mettere il disco degli 883 Nord, Sud, Est, Ovest, esatto, per ricordare la geograficità, non so se esiste come termine. Vabbè, dai, però è una data molto importante, certo. Bisogna assolutamente ricordarla. Quanti ne avevi? Io 2. Io 9. 2.5 no, per essere precisi. Io 9 me lo ricordo. 2.5 perché andavo di moda alle mazze. Sì, funzionavano molto. Sì. Dicevo, perché 30 anni fa oggi, esattamente il 9 novembre del 1989, Cosa succedeva? Cosa succedeva? Crollava il muro di Berlino. Veniva abbattuto. Crollato, giusto, no? Giusto. Beh, è crollato per i colpi di qualcuno, quindi sì, non è per stato colpa di qualcuno è crollato. Non è stato fisiologico. Dai, veramente, adesso facciamo a detta di tutti gli storici, però anche giornalismo, insomma, penso che sia una quasi unanime. dicono che sia l'evento più non dico significativo della storia del mondo, cioè che ha cambiato radicalmente la storia del mondo. Inutile riassumere quello che è successo perché lo sapete tutti. Sì, sostanzialmente tante persone, ecco. C'era questo muro che divideva la parte est e la parte ovest della Germania, e a un certo punto non andava più bene ai cittadini, comunque alla popolazione, questa divisione, e erano bellissime le scene che sicuramente ricorderai, degli amici, delle persone che si conoscevano, che finalmente si rivedevano, no, anche. Che cercavano di scalare il muro, sì. Per andare almeno a salutare il caro, l'amato dall'altro, certo. Lato, perché non c'era comunicazione. Tanti tentavano col gioco che avrai fatto anche tu, quello del bicchiere, appoggiavano il bicchiere per cercare di pallarsi. Ma qui è già però è una situazione abbastanza avanti, nel senso che si poteva avvicinare e toccare il muro, ma prima non si poteva neanche avvicinare. Esatto, perché c'era filo spinato, no? E non solo. E non si poteva. E quindi c'erano anche queste scene di tenerezza, ma anche molto dolore. Ma quello che vorrebbe fare Trump al Messico. Sì, che sta già provando a fare. Sì. Dicevo, scene di grande tenerezza, però vicino al dolore di queste persone che non potevano riappacificarsi. E ma poi... quanto è durato il muro di Berlino? Adesso poi mi metti in difficoltà. Vabbè, lo diremo dopo. 5-6 anni. 5-6 anni. Parecchi anni, assolutamente. Ma lo sai che erano tutti terroni quelli che hanno alzato. Sì. Io sono terrone, quindi mi sfotto per prima. Esatto, voglio esatto. Dire, ragazzi che ci stanno ascoltando, esatto. Perché magari sembra che sia quasi una discriminazione. Io sono di Palermo, quindi scherzo, ironizzo, perché noi muratori, insomma, io ho fatto anche il muratore quando ero piccolo. Sì, quindi, ho organizzato Milano, è stata costruita dai terroni. Così ha detto Aldo. Sì, sì. Ah, è vero. Grandissimo. Vabbè, dai, ritorniamo al muro. Comunque, dicevamo, data importante perché ricorre il trentennale. Tornavamo a finire la storia che a un certo punto chiaramente la popolazione non ce l'ha più fatta, la protesta è stata così forte. E sono riusciti ad abbattere solo metaforicamente ma anche fisicamente questo muro, questa divisione. Grande festa. Ricordi chi ha suonato al concerto dopo che il muro è crollato? Il Pink Floyd? No. David Hasselhoff. Mitch Buchanan di Baywatch. Ah, veramente? Sì, ha suonato lui per celebrare la festa della fine. In Germania quell'epoca era molto conosciuto, okay. Era artista di riferimento e ha suonato lui, ha fatto un concerto appunto per celebrare la fine di questa divisione, chiamiamola, sì. Anche sociale, prigionia. Politica, dicevamo, non parliamo assolutamente di politica, non è il nostro campo e non vogliamo che lo sia. Parliamo di musica però, perché all'epoca, Alex, lo ricorderai, c'era una canzone, o meglio, c'è stata una canzone che ha segnato questo muro e che ha segnato questo evento, ed è questa qui. Ti dice qualcosa? The world. Anche qui parliamo di storia della musica, sì. Ce l'ascoltiamo. Sì, un estratto, un brevissimo estratto, poi proseguiamo. Tra l'altro anche l'album è The Wall, vedi che anche disco tutto bello, iconograficamente richiama anche questa costruzione bellissima. Vai fino a qua che è il momento epico. Hey! Vai, ultimo. E poi ci vorrà su un effetto. Grandi ricordi, grandi Pink Floyd che hanno siamo dedicato, ritornati in diretta, non so quanto metaforicamente o meno, questa canzone alla data del muro di Berlino. E allora, ricordata questa importante ricorrenza, andiamo ancora con altri pezzi. Loro non c'entrano niente col muro di Berlino, non c'entrano niente con il 1989, c'entrano col fatto che è una gran bella canzone. E come sempre mettiamo gran bella musica. La schiocco le dita. Una bella tripletta qui, perché c'è Macklemore, c'è Ryan Lewis e c'è Ray Dalton. Andiamo a risentirci un brano che fa saltare, Can't Hold Us. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track. bussin'. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Mia, meno male che c'è il filo sulla cuffia, sono a saltare. Questa canzone fa assolutamente saltare. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton. Siamo ritornati. Can't Hold Us, sempre in diretta. Sempre in diretta. Sabato Dinner and Dance con Master Nick. Alex Angioletti. Benvenuti. Il nostro Alex che sta scaldando le dita, perché tra un po' andiamo. Meglio, lui va in console. Io vado in console. Anch'io vado in console, ma non metto dischi perché insomma ho ogni spazio. Adesso lo diciamo. No? Cosa fanno i DJ, gli speaker durante una canzone? Niente, pettegolano. Aspetta, c'è del gossip. Allora, Ristoradio Convento, come dicevamo, l'abbiamo accennato all'inizio, sì. Ci concentriamo anche sui fatti della settimana, insomma sulle cose importanti della settimana. E secondo me questa settimana... Io sono andato a fare la spesa la settimana, due volte anche... No, io solo lunedì l'ho fatto. Ho anche pagato una bella multa. Sì, No, dicevo che l'argomento della settimana, mentre la scorsa si era parlato dei biscotti della Nutella e Nutella Biscuit, secondo me l'argomento della settimana cos'è? È stato, che tra l'altro approfitto della tua presenza qui per sottoporti anche tecnicamente un giudizio sulla cosa. Non lo so. Un video, un brano che è diventato virale in tutta Italia. In tutta Italia con mille parodie. E che ha veramente spopolato sul web. Mille ve lo facciamo sentire e poi mi dici che cosa ne pensi anche tu come produttore e DJ. Ah, ok. Sono una madre. Sono cristiana. Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono cristiana. Io sono Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono cristiana. Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono cristiana. unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. È bellissimo. Dai, devo dire la voce. Genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2. E riparte. Allora, cosa è successo? La voglio in console. Cosa è successo? Cosa è successo? Un genio di cui non conosco il nome, ma c'è scritto. Lo voglio conoscere. Ma non lo so. Se è questo, ha preso un discorso fatto in piazza di Giorgia Meloni. Sì. Non so come ha capito che poteva stare in una metrica, perché era fatto a tempo. Sì. E l'ha fatto. Ma non è che l'ha fatto a tempo, l'ha creato a tempo. Sì. E lei parla. L'ha creato e ha fatto un pezzo che è diventato veramente un tormentone virale. Altro che schiocco le dita e batte le dita. In tutta Italia, e ci sono mille parodie. Perché chiaramente tutte le persone che possono genitore 1, genitore 2, tutte le persone che possono ballare su una musica da discoteca con una cassa in quattro, ovviamente ci sono tanti video nel web e ci mettono sotto Giorgio Meloni. Quello pensa che la prossima festa che farò sicuramente qualcuno verrà in console. Scusami, potresti mettere Giorgio Meloni? Sta già partendo. Ad esempio, io ho visto una parodia bellissima. Sì. Non so se giocavi magari da piccolo a FIFA. No. FIFA PlayStation. PlayStation, ok. A FIFA. E no, sai che chiaramente vabbè, però le esultanze dei giocatori erano sempre molto robotiche, no? Fluidità di allora. Esatto. Hanno velocizzato leggermente le esultanze per metterle a tempo con Io sono Giorgia, e quindi si vede gli giocatori di FIFA che esultano e ballano. È quello che succede su Instagram e poi accelerare un po' le motion. Bravo, uno spettacolo. Adesso però io la rimetto un attimo, perché vorrei anche sentire, come dicevo prima, tecnicamente il tuo giudizio sulla diciamo prima, siccome anche Alex ha avuto modo di fare delle produzioni o di lavorare su delle produzioni. Certo, vorrei certo, anche rifartela risentire, perché ma dobbiamo far partire genitore 1, genitore 2. Volevo far capire tecnicamente se lo ritieni un pezzo buono. Risentiamolo, allora. Giorgia, sono una Il groove c'è. C'è il basso, c'è la battuta pure. Sì, poi il ritmo. Cioè il ritmo nel senso la. Sì, poi c'è la costruzione musicale, perché questo è una sorta di pre, di intro, no? Sì, e qua c'entra. Qua entra il Charleston. Logic, dai. Via di produzione. La struttura c'è. Sì, è giusto, è stato fatto bene. È stato fatto con la testa. Guarda che comunque ha anche montato il video, quindi. Sì, beh, ha messo a tempo a del pensiero silenzio. Unico. E qua che piace. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo Franchino 2. Privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Cioè perfettamente a tempo. Vogliono che siamo questo è il mio pezzo preferito. Genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1 1 2, 1 1 1 2. Eh sì. Genitore 1, genitore 2. È bello, i due quarti. Già sono partiti. Sì, d'altronde si presta bene, dai. Ehi! Stiamo ballando. Fa ballare. Ma vuoi provare a fare la tua versione? No, dai. Io sono Alex. Angioletti. Ti metto la base. Dai. Ma dai, insomma. Ci sta. Devo fare live. Io sono Alex. Vai. Bello. Non un pezzo, però. Pezzettino. Io sono Alex e sono Angioletti. E questa sera vi aspetto. Dove mi aspetti? A convento. Sono Alex Angioletti. E questa sera vi aspetto al convento. Grande, è bello. Niente, questa ho esitato. Te la puoi studiare durante la settimana. Bella la prima. Sì. Te la prepari. No, io durante la settimana vado a caldo. A Tenerife. Mandami a quel paese. No. A Tenerife. No, vuol dire che te lo meriti. Un regalo di compleanno. Se vai a fare un giro. Bravo. Fai bene. E allora, il video della settimana, diciamo. Io sono Giorgia. Chissà dove andrà a finire. Ma come dicevi tu, io, secondo me, nelle playlist di Natale arriva. Nelle serate di Natale arriva. Io sono Giorgia. Già c'è stata una serata a Roma, se non sbaglio. L'hanno già messa. E sicuramente arriverà a brevissimo. Intanto continuiamo con la musica, anche questa molto molto bella. Lui è John Newman e ci canta il suo ultimo singolo, che si intitola Feelings. Che sia Feelings. But you never give the signals that I'm wanting. You know that I crave all your attention. It's danger. to you. When you say you do, you don't, leaving me no clue. If yes, no, and no, it's just tell me what you want. I'm a man to know what's going on. Living on both sides, I don't know what's best. I need you to tell me, don't know what's next. Be honest. Oh, yeah. I don't know if this is it. Is this it to you? When you say you do, you don't, leaving me no clue. If yes, no, and no, it's just tell me what you want. I'm a man to know what's going on. Just tell me what you want. I'm a man to know what's going on. Yeah. You, yeah. You never get the feelings that I want. You, yeah. You never get the feelings that I want. You never get the feelings that I want. Feelings, John Newman, sempre in diretta con Risto Radio Convento, Master Nick e Alex Angioletti. Dicevi? Siamo ritornati. Ah, siamo ritornati, okay. Ecco, giusto, giusto, ricordarlo, dirlo. Vabbè. Stiamo parlando di musica, stiamo parlando di tormentoni, stiamo parlando del giorno, attualità, del video argomento giorno. Del giorno, video del giorno. Un'altra chicca che ho trovato nell'internet, se ti può interessare. Non ho il video fisicamente perché l'ho cercato, ma non l'ho trovato. È un altro pazzo furioso, perché è veramente un pazzo furioso. Ma buono o cattivo? No, buono. Quello che pazzo sì. Nel senso che è un look. Non quel pazzo. Quello è genio. Dicevo, uno che ha lavorato tantissimo. Allora, ti faccio l'esempio. Uno che ha lavorato tantissimo non è un genio, però. No, ha fatto un lavoro veramente incredibile. Ti faccio l'esempio. Che lavoro ha fatto? No, hai presente i sondaggi, quelli politici, in cui ci sono i partiti con le strisce dei voti, la percentuale più alta, più bassa? Okay. Cioè, nel senso, tu sì, hai sì, okay. la striscia più lunga della percentuale più alta di voto e a scalare le altre. Sì, ok. Okay? Lui che ha fatto... Praticamente lui ha fatto questo lavoro degli album. Le ha date le strisce all'Apo? No, gli album più venduti dal 1970 al 2019. La bellezza è che c'è un time lapse di 30 anni praticamente. Non si vendono più dischi. Diviso per quarti d'anno, quindi ogni 4 mesi. Ah, 4 mesi? Ah, un quarto d'anno. Sì, scusa. Esatto, in quarti d'anno, esatto, pezzi d'anno. Sì, sono 4 8 12. 12, esatto. Okay. Esatto, 3 pezzi d'anno per anno e praticamente vedi queste bellissime linee, no? Sì. Che si continuano a modellare, sì. Perché chiaramente anche da un quadrimestre all'altro, sì. dei dischi cambia tutto. Cambia tutto, perché magari arriva un disco tipo Michael Jackson che dal niente arriva e boom, schizza in alto e in alto rimane. È veramente è beato chi c'ha il disco. Sì, io sì. Vado, eh. Ah, devi andare. Volevo ciao solo tutti, chiederti ciao chi tutti. È l'artista tuo di riferimento, secondo te. Passo, mi cogli impreparato e devo andare perché mi stanno chiamando. Andiamo. Ok. Ciao a tutti i radioascoltatori, rimanete sintonizzati, questo è Risto Radio Convento, Alex Angioletti, Master Nick, vi lascio adesso la conduzione. Ti raggiungo anch'io perché è il momento di partire con la festa, partire con la serata e dicevamo che c'è questo bellissimo video che appunto recupera e richiama quelli che sono i 30 milioni migliori negli ultimi 30 anni, i dischi più venduti, gli artisti che hanno venduto di più. Se siete appassionati di musica, andatevelo a vedere perché è molto interessante. Dura un po', dura una decina di minuti, ma se l'avete da perdere, approfittatene. Detto questo, vi lasciamo insomma con altra grandissima musica, perché qui siamo pronti per far partire la festa, quindi cambiamo un attimino clima e vi faremo vivere live il sabato notte del convento di Lonato. Vi lasciamo, o meglio, vi salutiamo, perché non vi lasciamo mai, sempre in collegamento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Questa è la nostra Ristoradio, la web radio del convento di Lonato del Garda, e quindi non vi lasciamo mai. Semplicemente terminiamo questo piccolo intermezzo radiofonico per lanciarci nella grande festa, nel grande sabato notte convento di Lonato.